dentro muro. Mi parli in frasi sciocche, sconvolgi le mie mosse. Mi perdi a volte il filo e non lo trovo. Sei un paradiso vero, all'improvviso tu sei un viaggio nel mistero.